Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci signori, alle 9 minuti riparte una nuova settimana di Uno Nessuno 100.000, che peraltro è la seconda settimana decisiva per la riforma elettorale, ufficialmente iniziata, partita. Qui ci vorrebbe un applauso, caro Alpino. La seconda settimana decisiva sarà quella decisiva per la riforma elettorale? Chi lo sa, chi lo sa. Cos'è sto applauso sincopato? Perché così? Va bene, va bene. Continua con gli applausi, perché adesso forse devo capire che è successo qualcosa. Che può tornare da Cialanoglu, nella rigore, Cigarini si mola, Brian Diaz si gira in un attimo e trova il primo gol in Serie A al quinto minuto del secondo tempo. Punisce, no, Brian un po', Diaz. Questo è un po' brutto, questo è un po' brutto, Lino. Vabbè, niente, diciamo, sì, ci sono tre squadre prima in classifica. Potremmo chiudere il campionato qui. Che dici, Alpino? Possiamo chiudere il campionato, andiamo in lockdown, chiusura totale e assegniamo con uno spareggio, uno spareggino tra tre squadre, Milan, Napoli e Verona, lo scudetto, eh? Potrebbe essere una proposta. Comunque, 9-10 minuti, cari ascoltatori, siamo qui tutti quanti riuniti, come ci ricorda il nostro Anacleto nella sigla iniziale. Voi potete chiamarci all'800 24 0024 o scrivere 349 238 6666, il numero per i vostri WhatsApp, per i vostri audio, per le vostre considerazioni. Vai, vai Alpino. I will not be easy. Però, and it will not be easy. Allora, a proposito, visto che iniziamo con la presigla del Premier Conte, devo dire che a me ricorda questa mattina, mi è venuta l'immagine di Ercolino sempre in piedi. Voi giocavate con Ercolino sempre in piedi, il pupazzo che non cadeva mai, anche se lo sdraiavi aveva dei pesi e contrappesi per cui si rimetteva sempre in piedi. Da qui Ercolino sempre in piedi. Ecco, mi sembra un po' questo Conte. Qualcuno l'ha accusato in passato di trasformismo quando dal Conte 1 si è passato al Conte 2, no? Prima stava con Salvini, poi Salvini è diventato l'arcinemico e si è messo col PD. E già allora chi lo definiva Churchill e chi trasformista. In ogni caso, Ercolino sempre in piedi, a me sembra questo. Vi faccio sentire due audio. La vicenda Tridico, presidente dell'INPS. Conte dice: non ero informato. Non ero personalmente informato di questa vicenda. Ovviamente ho chiesto degli accertamenti perché vorrei un attimo approfondire la questione. Ma come? Giovanna Vitale oggi su Repubblica racconta dal Conte 1 al Conte 2... tutti gli aumenti sono previsti da una delibera che risale al 9 gennaio 2001, una direttiva del Presidente del Consiglio impone che Palazzo Chigi controlli personalmente tutti i compensi del CDA e di INPS e INAIL. E poi c'è tutta la ricostruzione per cui dice, ma ecco, o non sapeva davvero, o ha dei collaboratori che firmano e non lo informano, non gli dicono nulla. Sembra un pochino surreale l'idea che non sapesse che cosa succede nell'ufficio a fianco a lui. Poi Ercolino sempre in piedi ne ha una anche sul reddito di cittadinanza. ma nei primi mesi del 2021 potevamo presentare anche l'altro progetto di attuazione, questo che incrocia anche il reddito di cittadinanza con l'offerta di lavoro, perché a quel punto lì avremo effettivamente anche un incentivo a reinserirsi. Il reddito di cittadinanza diventerà così una cintura di protezione, ma anche un incentivo a reinserirsi nel mondo del lavoro. Infatti, quello che abbiamo sempre detto qui, se no è una mera misura di assistenza se non c'è la parte del lavoro. Però è incredibile, Ercolino sempre in piedi, i risultati e il gradimento sale, pare che salga, sale. Allora, come iniziamo la puntata di oggi? Voglio salutare brevemente, solo due minuti, perché per dovere di cronaca dobbiamo commentare i risultati di un referendum in Svizzera di cui avevamo parlato venerdì. Alain Bühler, ben ritrovato. Buongiorno. Presidente UDC Lugano, avete perso. Questa è la democrazia, quindi il popolo ha fatto la sua scelta e quindi va rispettata. Ricordiamo che era uno dei referendum in Svizzera per limitare, lo traduco così, insomma, la libera circolazione, e quindi anche le persone che vanno a lavorare, i frontalieri in Svizzera. Devo dire che in Ticino avete vinto, però in Ticino, in Ticino è uno dei cantoni che sta subendo maggiormente quella che è la concorrenza, se volete definiamola così, della manodopera estera. Siamo a ridosso di una regione che ha un costo di vita nettamente più basso e quindi anche livelli salariali più bassi, e stiamo subendo quello che si subisce quando ci sono vasi comunicanti. C'è un travaso nella nostra regione e purtroppo lo stiamo subendo. Il Ticino ha votato sì, la maggioranza dei cantoni e popoli, quindi non è passato. Questo infatti è molto interessante, in conclusione, perché, cari italiani, sappiate che è stata bocciata credo con il 60% però in Ticino, e quindi al confine con la Lombardia, il 53,1% ha detto sì, voleva limitare. Quindi come la vediamo? In chiaroscuro per noi italiani, cioè siamo salvi, però non siamo ben accetti evidentemente in Ticino. Ma non è una questione di ben accetto personale a livello frontaliero, perché i frontalieri ci sono sempre stati in Ticino e in Svizzera anche prima della libera circolazione, quindi c'è, cioè, è una manodopera che comunque per parte dell'economia resta comunque una manodopera vitale, perché va a complementare, va a coprire dove non c'è manodopera da noi in Ticino. Abbiamo già parlato settimana scorsa, il nostro grosso problema lo rileviamo nel settore terziario, nel settore delle banche, degli uffici, dove una volta era il lavoratore residente ticinese, residente perché tra l'altro non è una preferenza agli svizzeri, è una preferenza al lavoro residente. Anche italiani, portoghesi, spagnoli, croati e chi più ne ha più ne metta. Quindi. Comunque, insomma, vi leccate un po' le ferite, ma giustamente la democrazia è questa. Si vince, si perde. La prossima è quella sull'accordo istituzionale con l'Unione Europea. Questo sarà quella madre di tutte le battaglie. La madre di tutte le battaglie. Ci sentiamo per allora, Alain Bühler. Esatto. Grazie. L'avevamo sentito venerdì, consigliere comunale a Lugano, presidente dell'UDC, cioè l'Unione Democratica di Centro a Lugano. E vabbè, quindi per dovere di cronaca sappiate che è stato bocciato il referendum per la limitazione della circolazione in Svizzera, però se si va per cantoni in Ticino il 53,1% lo aveva approvato questo referendum. E quindi, signori, sono le 9:16, oggi parleremo tra poco anche di scuola, torna con noi Maria Piera Ceci, parleremo di altri argomenti nella seconda ora, ci sarà anche il buon Leonardo Manera, reduce da Rai 1, reduce nel senso non che venga fisicamente, credo che starà in Vestaglione perché ha lavorato anche sabato, quindi figurarsi, starà in Vestaglione oggi e forse anche domani per questo. Ma adesso io vi voglio raccontare una storia davvero molto particolare, una storia italiana che ha catturato l'attenzione anche di Massimo Gramellini, che ne scriveva credo ieri o l'altro ieri sul Corriere della Sera, ha suscitato anche un po' di polemiche che magari non sono finite sulle prime pagine dei giornali, perché è una storia locale che però è molto molto simbolica, è una storia che ci porta a Carbone, siamo in provincia di Potenza, credo, Carbone. Allora, io voglio salutare un ex consigliere comunale di Carbone nella precedente giunta, che tra poco raggiungiamo, Egidio Chiorazzo. E saluto anche il fondatore del movimento nazionale L'Altra Italia, Mino Cartelli. Buongiorno Cartelli, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Allora, raccontiamo questa storia di Carbone, la racconto come l'hanno titolata i giornali. A Carbone hanno eletto un sindaco che nessuno ha mai visto, che nessuno ha mai conosciuto, un sindaco che non è neanche di lì, un paese di 500 e rotte anime peraltro, di 1000 abitanti, non lo so, forse Egidio Chiorazzo che ci ha raggiunto e che saluto, buongiorno Chiorazzo. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Ci sa dire bene quanti abitanti fa Carbone? Dall'ultimo censimento gli effettivi sono circa 560. 570, quindi un paesino, possiamo definirlo, sì. Un paesino, dove è stato appunto eletto un sindaco, Vincenzo Scavello, della lista Onesti e Liberi, che nessuno ha mai visto, perché credo che sia in Sicilia, sia siciliano. Certo, no? Siciliano. Certo. Ma si era candidata anche un'altra lista, quella di cui abbiamo il rappresentante qui, il fondatore Mino Cartelli, L'Altra Italia. Anche voi, caro Cartelli, avete presentato un candidato sindaco che non era di Carbone, se non sbaglio, no? Di dov'è? Allora, il nostro candidato sindaco, Antonio De Lorenzo, sì. È Leccese, di Giugianello esattamente. Leccese, quindi è pugliese. Vorrei fare però una precisazione, sì. Se lei me lo consente, saluto intanto il consigliere Chiorazzo. Scovello, il sindaco eletto dimissionario, quindi non l'ha mai visto nessuno. Io personalmente a Carbone ci sono andato ripetute volte. A fare che? Campagna elettorale. No, perché il tema è questo appunto, il sindaco, come ha detto lei, Vincenzo Scavello, appena eletto, che nessuno conosceva, si è già dimesso. Le posso dare un'anteprima. Sì. Personalmente, lei ha citato prima alcuni articoli, ma siamo stati massacrati, il mio movimento è stato massacrato da tutte le testate giornalistiche. Noi abbiamo uno staff di avvocati che sta lavorando in questo senso, perché giustamente suona strano, no? Uno che presenta una lista e il giorno dopo si va a dimettere dopo l'elezione. C'è qualcosa che non quadra. Che vogliamo chiarire appunto in questi 10 minuti. Allora, mi faccia chiedere a Chiorazzo, perché, e poi arriviamo da lei, Cartelli, perché il tema è questo. L'accusa neanche tanto velata è di avere presentato delle liste di persone che nessuno conosceva in paese, da parte di entrambi, solamente per godere di un privilegio della legge del 1981 che consente ad alcune categorie che si candidano di avere dei giorni di Delle aspettative. Ecco, allora Chiorazzo, voi di tutti i candidati, tutti, quanti ne conoscevamo in paese? Quanti ne conoscevate in paese? Nessuno. Ma da un lato e dall'altro. Guardi, nessuno. Una piccola precisazione: campagna elettorale è un concetto molto ampio. A Carbone non è stato fatto un comizio, non è stato fatto un incontro con la popolazione. 500 abitanti vi incontrerete a bar. Il signore che dice no, che ha fatto campagna elettorale è venuto a Carbone e ha fatto delle foto sotto il cartello di benvenuto. Questo è quello che ho visto io. La campagna elettorale è una cosa, se mi consente, molto molto diversa. La popolazione si è trovata di fronte alla necessità di scegliere. Sì. Tra chi amava tanto il paese, certo, parafrasando il vecchio politico, amava tanto Carbone e contemporaneamente si era presentato in altri 50 comuni d'Italia, e chi forse una volta eletto si sarebbe dimesso. Giustamente i cittadini hanno scelto il male minore. Lei ha detto infatti lei ha spiegato, rispondendo anche a Gramellini su Facebook, dice: noi abbiamo appurato che almeno in una delle due liste il candidato sindaco una volta eletto si sarebbe dimesso, così commissario e poi nuove elezioni, e quindi abbiamo votato, cioè in 70-80 circa hanno votato. Abbiamo fatto confluire dei voti sulla lista che sullo sconosciuto. punto dita incrociate, speravamo poi si sarebbe dimessa. Cosa che ha fatto? Quello che avevamo cercato di fare ci aveva suggerito che, probabilmente non aveva nessun interesse. Allora, chiediamo a Cartelli. Tra l'altro, Cartelli, premessa, in radio si parla uno per volta, perché sopra, come in TV, non si capisce niente. Allora, le faccio io questa domanda. Cartelli, voi siete nelle liste dipendenti pubblici? Ci può dire, e può anche rispondere al fatto di Chiorazzo, che dice che non l'ha mica vista il paese di Chiorazzo. Allora, intanto devo contraddire Chiorazzo, perché io non ho fatto la fotina, perché grazie a Dio non ho bisogno di fare fotine per pubblicità. Io sono venuto 3 volte a Carbone, ho parlato con tanta gente di Carbone, ho preso il caffè con i cittadini di Carbone, compresa una lunga discussione anche con il sindaco, che tra l'altro credo può essere suo parente, non lo so, visto il contatto che si chiama Chiorazzo. Si chiama Chiorazzo, ma non lo sappiamo, nei paesini a volte succede. Vede che già lei non lo so, ma lei perché si è, lei perché avete candidato una lista? Rispondo all'altra domanda. Nella mia lista, non solo in quella di Carbone, ma in nessuna delle 40 liste presentate in Italia c'è un solo impiegato dello Stato, non c'è un solo carabiniere, un solo poliziotto, nessuno. Per sono avere l'aspettativa. Ma allora, ma perché vi candidate? Scusi, facciamo, in un comune facciamo, che non è il vostro, ecco. Noi facciamo la campagna elettorale tutti gli anni, perché lo ha deciso la segreteria nazionale di farlo in questo modo. Ci presentiamo in tutti i comuni possibili per fare la nostra campagna, per farci conoscere. Noi siamo un movimento relativamente giovane, siamo nati nel 2018. Quindi sì, ma perché candidare un leccese a Carbone in Basilicata? Cioè, questo perché le prime esperienze, io l'ho dichiarato ripetute volte questo, le prime esperienze devono essere fatte fuori dai propri territori per evitare connivenze con le mafie, e lo sottolineo. Cioè io immaginerei il contrario, io immaginerei il contrario, non per la connivenza con la mafia, cioè inizia a fare politica nel proprio quartiere, nel proprio territorio, no, perché quello che conosce. Purtroppo non è vero che quanto più grande è un comune più ci possono essere connivenze, quanto più piccolo è un comune ce ne sono di meno. Non è così, purtroppo, perché ci rendiamo conto. Basta leggere insomma gli annali per capire quanti sindaci di comuni al di sotto dei 1000 abitanti sono stati arrestati e quanti comuni al di sotto dei 1000 sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Quindi le prime esperienze si fanno per una questione lontano. Si fanno fuori. È interessante questo. Qualcuno ci chiede perché nessun cittadino di Carbone si è candidato. In realtà, Chiorazzo, c'era una lista di Carbone che poi non è stata accettata. Adesso non lo so, per questioni di irregolarità. Se mi è consentita una precisazione. Sì. Giusto così per chiarire l'idea. A Carbone ci sono tantissimi problemi. Quello della mafia, fortunatamente, non c'è. Sì. Primo. Secondo. Nei paesi in cui ci sono 500 abitanti e gran parte della popolazione è ultra settantenne, ultra ottantenne, ultra novantenne, c'è una difficoltà intrinseca a realizzare delle liste. Perché, come lei potrà immaginare, anche essendo un comune piccolo, i contrasti tra famiglie, tra persone che la pensano diversamente, no? Ci sono. Quindi c'è una difficoltà intrinseca. A questo si aggiunge il fatto che per il disguido burocratico la lista dei locali è stata recusata. Quindi c'è un problema tecnico. Quindi, da questo punto di vista. La lista di Carbone, di cittadini, come si chiamano i cittadini di Carbone? Carbonesi. I carbonesi. La lista di carbonesi c'era, però non è stata accettata per motivi. A quel punto sono rimaste due liste di persone che nessuno, esatto. Lei ci dice, Chiorazzo conosceva, nessuno. Nessuno le aveva mai visti, però ha sentito dire Cartelli che nessuno è dipendente pubblico dei loro candidati. Quindi sì, ho capito, ma si mettono i nostri panni. Cioè, noi eravamo di fronte a due liste. Una diceva che se avesse vinto sarebbe venuto a governare per motivi suoi, perché ha interesse a penetrare il territorio. Quella di Cartelli, l'altra Italia. Quella di Cartelli. E un'altra ci aveva, anche se in maniera indiretta, suggerito che se ne sarebbe andato. Ma lasciandoci la possibilità di tornare al voto tra 6 mesi. Cioè, già questo non è qui il rappresentante di Onesti e Liberi, ma uno che si candida per dire tanto tranquilli, se vengo eletto me ne vado e mi dimetto dopo un giorno, cosa che ha fatto, già fa sospettare già credo che qualcosa. Sia una motivazione condivisibile. Ma quello che io volevo sottolineare, tra l'altro scrivendo a Gramellini, il quale non credo che risponderà a me, però... era che a Carbone 78 persone non sono andate a votare e sarebbero andate a votare anche se fosse stata presentata una pecora sono andati a votare con un preciso scopo, che era quello di impedire che il paese finisse nelle mani di perfetti sconosciuti. Sì, perché, questo era. Perché, c'è sì, un perché atteggiamento c'era la, di piena sì, razionalità. C'era la promessa di dimissioni da parte del sindaco che avete votato. Ecco, certo, pur non si è scelto il male minore. Ecco, voi Cartelli, in caso di vittoria avreste governato a Carbone? Indiscutibilmente sì, perché noi rispettiamo il volere popolare, lo rispettiamo ovunque. Pensi, io sono leccese e sono consigliere comunale a Varco Sabino da 3 anni. Io vado rinunciando anche al gettone di presenza, non percepisco nulla, ci vado a tutti i consigli e credo di essere il consigliere comunque lei mi conferma, Cartelli, non ci sono dipendenti pubblici, cioè nessuno, guardi, nessuno guardi, l'ha fatto per l'aspettativa, nessuno l'ha fatto per l'aspettativa. Se lei mi consente, io voglio precisare anche un'altra cosa. Io, mi devo fidare, io sono stato raggiunto appena presentata la lista da due delle forze di polizia di Lago Negro, che mi hanno sottoposto a interrogatorio. E quindi c'è qualcosa che va al di sopra di quello che ognuno può dichiarare. Ecco perché lo staff di avvocati sta lavorando. Per capire insomma che cosa sta succedendo a Carbone. Vabbè, io sono sotto interrogatorio da parte delle forze dell'ordine, non avendo nessun indipendente delle forze dell'ordine. A questo si aggiunga, tanto per essere conciso e rispondere alla sua domanda di prima, noi abbiamo dichiarato, perché io mi sono precipitato immediatamente quando ho saputo della ricusazione della terza lista, sono precipitato in comune per dire: evitiamo il commissariamento, facciamo un'amministrazione congiunta, ed è apparsa su tutte le testate giornalistiche, ma al solo fine di evitare il commissariamento. Evidentemente qualcuno non voleva far vedere i documenti del comune, agenti estranei al comune. Non lo so, ci sono dei dubbi e le forze dell'ordine che indagheranno su questo. A me interessava raccontare questa storia paradossale, ripeto, non storia da prima pagina, ma un po' storia di un certo modo italico di interpretare la cosa pubblica. Evidentemente, ripeto, nella cittadina di Carbone 500 e rotti abitanti, non ne fanno 600, si sono di fatto candidato di due liste di perfetti sconosciuti, ci dice Egidio Chiorazzo, ex consigliere comunale, che vive lì, quindi saprà, insomma, conoscerà tutti, e di fatto è stato eletto uno dei due sindaci, quello che aveva promesso, essendo siciliano, di dimettersi non appena fosse stato eletto, e così è successo. Io per il momento vi ringrazio, poi vedremo come evolverà la questione, se ci saranno sviluppi. L'accusa, ripeto, è quella di dire: sono liste di persone che fanno così solo per avere un'aspettativa dai posti pubblici. Mino Cartelli, uno dei rappresentanti dell'Altra Italia, dice, fondatore di questo movimento, dice: non è vero, non ci sono dipendenti pubblici. Io mi devo solo fidare, voglio dire, di quello che dice, non è che chiedo il curriculum vitae di tutti i candidati. Sta di fatto che è una storia molto molto peculiare e strana, questo concedetemelo. Va bene, è arrivata Maria Piera Ceci, anche se al volto di Mauro Meazza, ma dopo la pubblicità parleremo di scuola. 1, nessuno, 100 Milan. Il Conte ha detto che non era personalmente informato. Vuol dire che lui era informato, ma non personalmente. Il legalese serve a qualcosa. Ercolino sempre in piedi, Ercolino, è quello, è Ercolino sempre in piedi. E no, io ho detto che personalmente non era. Vabbè, vai. A Carbone vogliamo un sindaco a chilometro zero. Tutti a scuola! Con questo spirito rock anche, eh? Tutti a scuola con questo spirito rock. C'è Maria Piera Ceci che balla sui tavoli. No, io non ballo, io sono seria, al contrario. Vabbè, di te. Perché chi balla non è serio. Adesso, cari ascoltatori, Maria Piera Ceci ha stabilito che chi balla, cari ballerini. Beh, di fronte a una telecamera, sul tavolo, in radio. Ci hai tranciato tutto. Va bene,

e la scuola non consente lo. Perché se è una scuola, ad esempio media, in cui in questo momento, come è giusto che sia, non è prevista didattica a distanza, se un ragazzino è a casa, fatti suoi, l'insegnante non può mettersi uno smartphone di fronte alla faccia. Tutti sono lì, tranne uno o due, questi uno o due rimangono. Però rimangono in quarantena magari 20 giorni, 15 minimo, 14 minimo, se non 20, se non un mese, perdono un mese di scuola. Un telefonino su una cattedra, tutto sommato, ci potrebbe stare, no? Sì, diciamo che non è facile. È facile, come dire, trovare soluzioni, ma in realtà non è facile. Sicuramente l'idea del promossi tutti è l'idea che ci ha fatto anche capire l'avvocato, era prevista un po' dal decreto ministeriale. Quindi anche quest'anno, se mai si dovesse finire torno all'inverno, tutti in didattica a distanza, non sarà così. L'ottimista Ceci. Ci risentiamo lunedì prossimo, cara Maria Piera. Ciao, un abbraccio, vale. Ciao. Traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Dai, tutti a dire sì, promuoviamo tutti, avanti tutti, poi il mondo del lavoro li voglio vedere. Vabbè. A proposito di mondo del lavoro, oggi mi sono svegliato e ho detto non piove, anzi guarda che bel sole che c'è. Parlo per Milano. E quindi arrivo e ci sarà Leonardo Manera qui, non ha neanche la scusa della pioggia, me lo troverò in radio. Leonardo? Ah, buongiorno. Ma dove buongiorno. Sei? Ti aspettavo qui in radio. Dove sono? Dove sei? A casa, sto a casa. Come dice Burioni, state a casa. L'ha detto così. State a casa. Se state male, sì. State a casa. Voglio farti oggi i complimenti, cosa rara, non mi sento mai di farteli. Grazie. Ma oggi te li faccio perché mi è piaciuta molto l'immagine di Ercolino sempre in piedi, perché è evocativa. Me lo ricordo, io lo ricordo, Ercolino sempre in piedi. Critico, ma personalmente che... io non sapevo, ma è com'è, approvato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri lo stipendio. Se non sbaglio... Era il personaggio di una pubblicità, Ercolino sempre in piedi, non ricordo quale pubblicità, ma insomma rende l'idea. Adesso verrai però attaccato. Va sistemato, attaccato. Perché così non va bene. Ercolino tu lo sai che verrai attaccato dai sostenitori del Presidente del Consiglio, anzi secondo me ti hanno già attaccato alcuni, ho visto su Facebook e cominciano già a insultarti, giustamente, però l'immagine è calzante. Allora, insultate anche Manera perché lui mi ha dato ragione, quindi... Mi dice anche bravo. Ma io mi associo e contemporaneamente mi dissocio. Ecco. Non ero a conoscenza, personalmente non ero a conoscenza del fatto che avresti usato questa immagine. Poi ce la siamo trovata qui e va bene. Però io non sapevo che l'avresti usata, quindi in qualche modo mi dissocio, pur associandomi. Va bene. Credo di essere stato chiaro. Sì, come una sardina. No, adesso mi attiro anche le sardine. Io non devo più parlare. Questa è la verità. Non devo più parlare. Prego, Leonardo Manera, a lei. Parlo io. Allora, non so voi, ma io proprio quella impressione. Non è una bella impressione. Quale? Ho l'impressione che molti mezzi di informazione, con i loro titoli, con i loro articoli, non vedano l'ora di poter dire che si è tornati al lockdown, o almeno a forme limitate di lockdown. Salgono i contagi, affermano con tono enfatico. In Israele è di nuovo lockdown. Francia e Inghilterra studiano nuove misure restrittive. E il tutto annunciato come se fosse sottinteso che ormai manca poco anche per l'Italia. Sì, per il momento stiamo ancora un po' meglio come contagi, ma tra poco ci siamo, tra poco tocca a noi e torneremo a piazzare i nostri inviati fuori dagli ospedali per riprendere la prima ambulanza che arriva o la prima bara che esce. Senza considerare che comunque in ospedale è normale che arrivino ambulanze e che escano bare anche nei tempi felici di una volta. Ma loro stanno lì a sottintendere dai che manca poco, la situazione si sta di nuovo aggravando e attenti che se non fate i bravi toccherà anche a voi. Anche voi potreste essere nel mirino del coronavirus, che è vero, produce in gran parte asintomatici, ma potresti essere proprio tu, uno di quelli che va incontro a problemi gravi, e se non sei tu potrebbe essere tua madre, tuo padre, tuo nonno, tua nonna, insomma, quelli più fragili a cui vuoi più bene o ai quali dovresti voler più bene. E se non ti preoccupi per loro devi sentirti in colpa, non vale niente e meriti la gogna sociale e ti verremo a riprendere dall'alto con i droni. e se per caso un giorno ci sono meno contagi, chi ne dà conto non vede l'ora di poter aggiungere, sì, ma con meno tamponi del giorno precedente. Insomma, io pensavo di essermi liberato dalla morale che mi faceva mia madre quando da bambino, per esempio, non mangiavo qualcosa e lei mi diceva «devi mangiare tutto, che in Africa ci sono i bambini che muoiono di fame» e mi faceva sentire in colpa. Pensavo di essere ormai in grado di avere una mia responsabilità personale e adesso invece mi ritrovo i TG mamma a farmi la morale, a blandire quelli che si comportano bene e a castigare quelli che, anche se solo le intenzioni, sono un po' più critici pur rispettando le regole. Siamo passati in poco tempo dai mezzi di informazione più o meno schierati, ai quali peraltro ci eravamo mestamente abituati, ai mezzi di informazione paternalistici che informano, sì, ma con la morale incorporata, che ci trattano come bimbi a cui insegnare come comportarsi. Non bastavano i programmi con le risate finte per farci capire in che momento bisogna divertirsi. Ora sono arrivati i TG mamma. Attento che questo è giusto e questo e quell'altro è sbagliato. E se non fai così, facci intervenire qualche simpatico e importante personaggio dello spettacolo a ribadire il concetto. Ora, nell'ottica dei nuovi TG mamma, tutte le classiche notizie che di anno in anno ci ritroviamo potrebbero essere date in chiave moralistica, per esempio quando arriva l'estate. Fate bere molta acqua ai vostri nonni, che altrimenti potrebbero disidratarsi, e sarei tu a risponderne. Teneteli all'ombra, lontani dalle bombe di calore, altrimenti potrebbero collassare, e sarei tu a risponderne. Teneteli in vita per sempre, altrimenti moriranno e sarai tu a risponderne. Insomma, una volta i sensi di colpa si coltivavano solo in famiglia o in amore. La bella novità del 2020, grazie al coronavirus, è che ora si coltivano anche nei migliori TG. Oh, eccolo qui, negazionista maniera. Ecco. non sono negazionista. Lo so, lo dicono anche a me, quindi io lo dico a te. Allora, che tra l'altro, sì, ho visto un locale che si chiama, proprio di nome, si chiama Movida. Movida. Movida, il locale in sé, si pensa a quelli che vanno lì, no? Allora, pieni di coronavirus, il locale in sé sarà pieno, allora, di coronavirus. Ho due sfide, Luchetti. Una, avevi ragione tu, era un gadget della, si può dire l'azienda, Ercolino sempre in piedi, un gadget, vabbè, dai, della Galbani, ma chi se ne frega, questo è la sfida, Luchetti. Secondo, dobbiamo rispondere a un messaggio, me l'ero perso ma ringrazio la redazione, di Elena. Elena chiede un problema serio, dice: siamo della Liguria, dovremmo andare a Lugano in Svizzera per visite oculistiche. Sapete che la Svizzera ha chiuso ai liguri la possibilità di entrare. Può aiutarci a comprendere se possiamo andare? La risposta è sì, perché rientrano tra le deroghe alla quarantena i motivi medici necessari e improrogabili. Se rientra in questa categoria, cioè una visita medica improrogabile e necessaria, allora si può anche dalla Liguria entrare in Svizzera e andare a Lugano per la visita. Questo dovevo a Elena. Eccolo qua. Allora, caro negazionista, come va? Come è andato? Sei andato su Rai 1? Attenzione, facciamo, vabbè, forse non dovremmo dirlo. Forse ci tagliano dal personale, sì, il 50% dei fondi. Tornerò alcune volte quest'anno nell'arco dell'anno. Questa lo faccio solo per te. Rischio il lavoro solo per te. Prego, prego, di bene, fammi perdere il lavoro bene, però. No, sei tu che hai introdotto l'argomento. Sì, infatti, io voglio perdere il lavoro, ma bene, facendolo per te, per un amico. Allora, quest'anno, nell'arco dell'anno, andrò alcune volte in questa trasmissione che si chiama Italia Sì, condotta da Marco Liorni e con alcuni ospiti. Il sabato. Su che rete? Sabato. Dilla bene. Rai 1. Rai 1, bene. Allora, io chiudo qui la mia esperienza invece a Radio 24, la seconda ora la conduce. Secondo Leonardo me sei tu Maniera. Che cerchi altro, stai cercando altro perché sei stanco di lavorare a Radio 24. Va, sì, vorrei dedicarti a un'altra attività. Giornale radio. Puoi andare a Radio Birichina, ho sentito, Radio forse. Bella e Monella. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, ma Milan, come si fa a pagare uno che lavora in vestaglia? Ho capito che ha lavorato sabato, Ma io ho lavorato anche ieri e stamattina sono sul posto di lavoro un'altra volta. Sono in privilegio, caro ascoltatore. C'è chi è privilegiato, c'è chi è nato con la camicia, chi con la vestaglia e chi no. Vai Alpino, vai. Milan, per insultare Manera ci vuole poco, basta dire fluoro. Vabbè, e come facciamo a pagare uno in vestaglia? Non lo so, a parte che non lo pago io, quindi per me io gli triplicherei lo stipendio, anche se sta in mutandoni. Stamattina non sono in vestaglia perché prima sono sceso, sono uscito a prendere un caffè al bar Jimmy, quindi mi sono dovuto vestire. L'altro è anche un po' di raffreddore, attento. Sono un po' raffreddato, sì, ho il naso colante. E vai in giro a untare, a fare l'untore? Sono andato al bar Jimmy a prendere il caffè, sì, col raffreddore. Mi devo sentire in colpa? È ufficiale, è una giornata nera, ma nera, ma nera. Vabbè, vabbè. Allora, avete sentito la notizia? Non so, si deve sentire in colpa? Facciamo un sondaggio al 349-238-6666, Manera al raffreddore. Si deve sentire in colpa per essere andato al bar Jimmy? Non lo so, dite voi, dite la vostra. Io voto per il sì e voi dite la vostra. Allora, avete sentito la vicenda incredibile di Trump, nel senso che il New York Times ha fatto un grande scoop, è riuscito a impossessarsi dei resoconti segreti degli ultimi 15 anni, gli ultimi due anni no, però diciamo fino al 2018, i 15 anni precedenti delle tasse pagate da Trump. Sappiate che nell'anno in cui ha vinto la presidenza 4 anni fa ha pagato $750 in un anno di tasse, cioè praticamente nulla. E nei 15 anni che precedono la vittoria precedente, su quei 15 anni, per 10 anni ha pagato $0 di tasse. Beh, è incredibile. Abbiamo materiale su cui lavorare. Ragionier Crosta dell'Agenzia delle Entrate. Questo apre delle praterie sconfinate. Abbiamo tasse da recuperare, sì, non solo in Italia, ma anche in tutti i paesi del mondo. Noi entreremo nella Trump Tower. Siamo già pronti con la nostra task force di ragionieri. Entreremo noi con la nostra task force di ragionieri nella Trump Tower. Analizzeremo tutto quello che ha il dottor Trump, ammesso che sia veramente laureato, e poi, in base al reddito presunto, che già di per sé è enorme, gli faremo pagare le dovute tasse. Tower, solo il nome ipotizza milioni, miliardi di tasse da pagare. Ma cosa c'entra? Sono in America, la Trump Tower. E noi sì, perché verremo contattati direttamente dagli Stati Uniti, in quanto noi siamo i più efficaci, siamo abituati all'Italia e quindi renderemo al meglio anche là nella Trump Tower. E l'idea solo di essere sul terrazzo della Trump Tower mi fa venire i brividi, mi fa godere. La Trump Tower, per tassare tutto il tassabile. Ma guardi che quelli sono soldi che rimangono in America, non ho capito perché era questa sua eccitazione. Non arriva un euro in Italia di quei dollari, semmai. Sono già stato contattato dalle autorità competenti degli Stati Uniti per introdurmi con la mia task force di ragionieri all'interno della Trump Tower ad analizzare i vestiti di cashmere di Melania Trump, vestiti firmati, vestiti di Fendi, di Valentino, di Versace, e in base a quello noi faremo pagare le tasse al signor Trump e alla signora Melania. Perché Melania le crea questo sturmo? Melania Trump. Non è l'app che funziona male, è proprio che si chiama così per il ragione. Com'è che si chiama? Melania Trump. Va bene. C'è Claudia che ci chiama da Como. Vediamo cosa da dirci. Buongiorno Claudia. Eccoci. Buongiorno Milan e buongiorno Manera. Senti, io ho sentito prima quella telefonata che ha fatto con quel signore svizzero sul referendum. Alain Bühler, sì, dell'UDC. Io non sono... sono arrabbiatissima perché gli svizzeri non ci possono vedere, diciamo chiaro e tondo, soprattutto i ticinesi. L'alta Svizzera infatti ha vinto il sì, avrebbe vinto il sì in Ticino, solo per il Ticino, cioè il sì alla limitazione degli italiani. poco, perché i signori ticinesi hanno italiani, turchi, hanno tutte le razze hanno, e fanno lavorare, perché quando tu lavori in Svizzera hai il fiato sul collo, non è come in Italia. Quindi prima di dire di fare questi cavoli di referendum dovrebbero pensarci due volte, perché loro non hanno uno svizzero che sa lavorare come 10 italiani. Lo so, però cavolo di referendum. Doveva è la difenderci, democrazia, Milan, è la democrazia. Doveva difenderci. Ma cosa vuol dire difendere? Ma difenderci in che senso? Perché è un referendum, perché il popolo ha votato, ha vinto il no. Tra l'altro lei dovrebbe essere contenta avendo vinto il no. Sì, io sono contenta perché sì, ma cosa crede? Non è il primo referendum che fanno, perché ne avranno già fatti 20-30, no? Tutte le volte perdono, ma non hanno ancora capito. Non hanno ancora capito che loro hanno bisogno di noi italiani, perché noi portiamo soldi, portiamo lavoro, portiamo tutto. Secondo una visione, ma infatti noi siamo d'accordo con l'idea che dovevamo difenderla, non è che dobbiamo fare la battaglia sovranista contro gli svizzeri. Insomma, potevi essere un po' più dichiareremo guerra alla Svizzera oggi. Va bene, dichiareremo guerra. Non hai difeso abbastanza gli italiani, sì, sei stato un po'. Sì, sì, in questo sei stato un po' passivo. Ho fatto il giornalista, ho fatto delle domande. Tu smetti la maniera. Non andare dietro. No, io sono d'accordo con la signora. Ecco. Cosa dovevo fare? Sono d'accordo con la signora. Dovevo chiamare Garosio forse, questi svizzeri che fanno questi. Ecco, forse ci fosse stato Garosio, forse avrebbe fatto una difesa più a oltranza. Ma io mi aspettavo che tu fossi un po' più così, un po' più incisivo. Invece ma incisivo hai fatto la classica in che senso? Intervista in ginocchio, sì. Sì. sei veramente vabbè. Anzi, facci complimenti alla signora che ha fatto notare questo particolare che non era stato abbastanza rimarcato. Dovevo difendere di più gli italiani. Insomma, uno fa il suo lavoro, ormai si confonde il giornalista che fa delle domande, che non è importante la domanda, è importante la risposta. La domanda sì è importante, ma è più importante la risposta, no? No, invece sono io che non ho fatto il come. Cosa è stato palese. Vergognatevi, Bühler. Adesso lo faccio perché non è qui. Si vergogni, Bühler, a proporre questo referendum. Come vi permettete? Vergognatevi. Così avrei dovuto. Fortunatamente la signora ha fatto notare il tuo atteggiamento. Grazie signora. Ringrazio anche Fusconi che mi scrive che mi vuole asservito agli svizzeri. Quindi mettetevi d'accordo, perché Claudia da Como non mi vuole asservito agli svizzeri, mentre Elisabetta Fusconi sì. Io non so, dovevo essere più incisivo. Allora dai, andiamo al traffico. Intimissimi uomo, boxer a €7,90 nei negozi e online. Vi presenta Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui alle 10-17 minuti, ma invece sai cosa che mi ha colpito? Un'altra notizia, caro Leonardo, proviene dalla Thailandia, due notizie per la verità, una dall'Italia, ma questa dalla Thailandia. In Thailandia un turista americano, che peraltro non si capisce perché è un turista americano però vive anche in Thailandia, non è tanto un turista allora. Comunque un cittadino americano ha fatto una recensione pessima su TripAdvisor di un resort. Staff molto sgarbato, nessuno sorride, il capo manager del ristorante il peggiore di tutti, molto maleducato. Sai che rischia? È stato denunciato per diffamazione e racconta nei giornali che la legge sulla diffamazione in Thailandia è molto presa seriamente, rischia 2 anni di carcere. 2 anni di carcere per una recensione pessima su TripAdvisor. Interessante questo. Nel frattempo è rientrato in America, negli Stati Uniti, e ancora si è già fatto un po' di galera, poi adesso è stato rilasciato in attesa del processo. Rischia una multa fino a 5.400 euro in corrispondente alla valuta locale, che è il BAT, e 2 anni di carcere. Sei condannato per diffamazione, perché il resort ha detto era l'unico modo per difenderci, denunciarlo per diffamazione, perché continuava a scrivere dei giudizi molto pesanti e niente, insomma. Però questo tema delle recensioni, delle stelline, è un tema molto universale. Tu che vai in giro, per esempio, metterai sempre delle pessime recensioni, tu sei incontentabile dovunque. Io mi diverto a mettere le faccine negative, ecco. Sai, per esempio, che in tutti i posti, in molti posti, hai la possibilità di scegliere faccia neutra, sorridente o negativa. Io, a prescindere, quando entro metto già quella negativa. Ma perché? Ma vedi che sei un bastardo dentro. Ma c'è gente che poi viene valutata in base a questo. Ma secondo te lo faccio davvero? Dico di farlo a mio figlio, ecco. Quindi sono 2 faccine. Poi i figli sono quelli che passano 10 volte tan, tan, tan, tan, tan, e mettono tante, esatto, facce. Vedi che sei. Invece mio figlio, per esempio, se capita all'aeroporto, vanno sempre a mettere le faccine positive. Sei proprio cattivo dentro, nell'animo. Sei di malanimo pessimo. Qual è l'altra notizia che ti ha attirato? L'altra notizia che mi ha attirato, leggevo su Libero, il segreto della relazione duratura, questo secondo una ricerca che è stata fatta, è 2 cuori e 2 capanne, cioè una relazione duratura è tale se i partner vivono in case diverse, non in stanze diverse, dormono proprio in case diverse, in case diverse. Beh, sì. Questa è una, insomma, conferma anche la mia teoria, il mio saggio che diceva amore metri quadri in qualche modo. Sì. Cioè, sì, che l'amore dura di più, può durare a lungo se è una casa molto grande, nella quale ognuno ha la propria stanza, ognuno praticamente vive per i fatti propri e ci si incontra di tanto in tanto in una camera comune, ma poi il resto della vita si fa completamente separati anche in casa. Sì. Quindi, bravo, vedi, bravo, che vengono confermate, i miei saggi vengono confermati. Sì. Oggi, teorie, oggi anche non c'è, fonti autorevoli. Sì, non c'hai neanche ancora dato una perla di scienza. Io però, scusate, ieri ho visto la classifica andando a dormire di calcio, non c'entra niente, ma vogliamo fare una chiamata a Mariona Dinolfi, che lui con la sua Juve si trova sotto di noi, vogliamo vedere se squilla il cellulare di Mariona Dinolfi. Gli diciamo un bel -2. Pronto? Eccolo. -2. -2. Marione, sei a -2. No, mi hai rotto le balle per 15 anni con la classifica. -2. -2. Sei a -2. -2. -2. Ho lasciato il guarda, -2. Il pannolone per aver paura proprio di questo grande, grande Milan. Ma Nera, diglielo anche tu, che sta a -2. -2. Ma come diceva la mamma di Manera, rinuncia. La mamma di Manera vi ha spiegato tutto, rinuncia. Ma no, se vuoi anche quest'anno un po' di belle pagine. Io invece notavo la differenza di quello che dicono i mass media rispetto a quando c'era Sarri. Se la Juve avesse pareggiato con la Roma con Sarri presente, avrebbero detto Juve in difficoltà, avrebbero criticato. Invece adesso c'è grande rimonta della Juventus, forse perché si ama di più Pirlo che non Sarri. E Pirlo è raccomandato, è vero. Cioè, questa cosa che a Pirlo vogliono bene, ma sai, quando vinci i campionati del mondo, diciamo che insomma una qualche linea di credito te la prendi rispetto a uno che a 60 anni non aveva vinto niente. Che poi adesso hai visto che Sarri è andato a fare il colonnello della Guardia di Finanza, adesso che indaga sulla vicenda Suarez a Perugia. Colonnello Sarri della Guardia di Finanza. Che divertimento, è vero, c'è il colonnello Sarri, non avevo notato. E sono tutti segnali da un lato e dall'altro che sta crollando l'impero. Ma certo, come non capirlo dal caso Suarez, certamente, che è un segnale d'altronde del tutto astruso dal sistema Italia, è una cosa nuova, una cosa che ci ha sorpreso un po' tutti. Il diploma di italiano non si prende così in Italia, non è? Il B1 non te lo danno con 500 euro in qualsiasi scuola, vabbè, è una novità, abbiamo scoperto col caso Suarez come funziona il diploma B1 di italiano. Eccolo, vabbè. Infatti Io avevo detto che Suarez meriterebbe la cittadinanza onoraria, perché è proprio lo specchio, l'immagine. Bravo Manera, vedi? Esatto, ecco. Perché è esattamente uno che si è calato, diciamo, nel nostro sistema paese. Vedi, tanto così. Manera ci ha detto, ci ha svelato di aver votato un po' tutto da quando ha 18 anni, tutto. Gli manca il popolo della famiglia a sto punto. Vai, vai, vota, bravo. Manera, tu sei pronto. Cioè, io ti vedo pronto. Tutto. Con questa citazione della mamma, mi pare chiaramente sì, nelle nostre parti. Insomma, quindi, tutto ho votato, tutto. Vabbè, Marione, niente, seta meno due, l'ho detto anche a Marco Agnoletti, grande sì, tifoso della Juve, che oggi mi ha scritto, meno due, e così. Io farei un ma DPCM. Ma lo puoi godere, per una settimanella funziona sta cosa, ma per una settimanella torna buona. Io farei un DPCM per sospendere il campionato e assegnare lo scudetto. Comunque, così, siccome noi non siamo ingordi, chiamami quando sei a meno 20, perché io non è che mi posso prendere tutte le settimane questo impegno, capito? Quando sei a meno 20, capito? E magari recuperi un punto, dice oh abbiamo recuperato, bravo, io ti sì, dico. Certo, è come i politici, bisogna vedere come eri prima. Se sei a meno 19 da meno 20 hai guadagnato, chiaro, hai guadagnato un punto, per quello devi fare tu. Adesso stai tranquillo, non ti affannare comunque, che lo scudetto è dietro l'angolo proprio, si vede, vabbè. Con Colombo scoprite l'America, scoprite. Mi vedo pronti, guarda, mi vedo che fa il galluzzo. Beh, fa il galletto. Colombo è una grande promessa, sì. Promessa, una grande promessa, come quell'altro che si è subito spaccato il braccio, come si chiama? Rebic, vabbè, adesso te la prendi perché uno si è spaccato il braccio. No, perché mi dice pure male, in effetti siete un po' sfortunatelli. Vabbè, ma noi con una rosa... Il Covid, il braccio, con una rosa, con Colombo, sì. Guarda, tra un po' convocano anche me in Manera. Manera è ottimo a centrocampo, a gestire così, io faccio un po' il mediano di interdizione dietro a Manera, corro... Divertente. Di Colombo che se la deve vedere col Rio Ave adesso, che bella partita, eh? Rio Ave Colombo, che bellezza. Due vittorie in Europa League, tu ridi, voi con l'Europa avete poco da ridere, avete poco da ridere. Il Milan delle Coppe dei Campioni che deve giocare col Rio Ave, non l'avete pescato il Rio Ave, guardate ragazzi. Questo un po' è vero. La smargiasseria degli juventini. Questa è la smargiasseria. E vincevano le coppe col Barcellona in finale, dominavano l'Europa. Ti ricordo che sei sempre a meno due. Ti salutiamo così, a meno due. Se settimana prossima sei ancora sotto, ti richiamo, Marione. Ti richiamo anche la prossima. Va bene. Un abbraccio. Vabbè, insomma, questo è. C'è Carlo da Venezia. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Sì, che buongiorno. Ci dice? No, io volevo contestare, scusi, se mi permetto, l'affermazione prima sulla scuola, che bisogna rassegnarsi. Io faccio parte di quei genitori che sinceramente mi riesco ancora ad arrabbiarmi e indignarmi. Perché le racconto, le sono raccontato che dopo il Covid, dopo il lockdown, non dovevano fare assolutamente le lezioni nelle scuole e le hanno fatte. Giovedì e venerdì, almeno nella mia provincia, nella mia regione, hanno fatto sciopero, non ho capito perché cosa, vorrei, parafrasando Marchionne, sciopero da cosa, vorrei dire. E ci troviamo in situazioni in cui la scuola, che tutti a parole dicono che dovrebbe un bene primario, che alla fine viene bistrattata, in cui ci sono insegnanti incommiabili che vengono pagati come delle persone cui prendono a scala la sedia. La scuola non è questo, o non dovrebbe essere questo. Ma io non è che rassegnati, cioè io ho detto sono con queste regole stringenti. Guardi, oggi mi hanno già scritto tre mamme di tre scuole elementari di Milano dicendo che la classe del loro figlio è stata chiusa per un caso. Non parlo del Covid, è proprio. La rassegnazione la riferivo al Covid, cioè ho detto con queste regole nel giro di uno o due mesi saranno quasi tutti a casa, ma il problema è che dopo saremo a casa anche noi genitori perché avremo la quarantena, quindi ma è anche lì, mi scusi, perdoni, ma pronti via, cioè si comincia la scuola, facciamo i tamponi. Cerchiamo magari invece di cominciare tutti i 14, cominciamo il primo di settembre, il primo di ottobre se non ce la facciamo, ma non è possibile che non si riesca ad avere un quadro generale di partenza. Apriamo e proviamo come va, ma capisce che non può funzionare una cosa del genere. Cioè, io faccio il mio caso, Io lavoro, mia moglie lavora. Succedesse, ho due figli che certo. vanno in città scolastica, blocchiamo tutto. Però scusi Carlo, lei fa il tampone se uno ha i sintomi. Prima dei sintomi non è che fai il tampone. Ho capito, ma mi scusi, ho capito. Io vado a scuola, 20 persone, 20 bambini. Chi lo sa se uno è asintomatico se non facciamo il tampone? E quindi ho capito, Ho capito, però alla fine ci troviamo in una situazione in cui speriamo in Dio, perché se la Francia è così, la Spagna è così, non è ma che l'Italia io non ho capito, lei che cosa vorrebbe, cioè vorrebbe tamponi a tutti nel momento in cui entra a scuola. Ma li deve fare tutti i giorni, se uno fa il tampone oggi negativo, domani è positivo, cosa fa? Ogni giorno fa tamponi a milioni di... No. Però almeno avere un dato di iniziale da cui partire... almeno sì, cosa dice? Ormai è troppo tardi, però un dato iniziale da cui partire. Va bene, allora lei dice? Fa il tampone oggi a tutti gli studenti e scopre che tot sono positivi, ma domani quelli che oggi erano negativi potrebbero essere positivi. Assolutamente sì. Ma scusi, se io devo riunire 20 persone in una stessa classe, comincerò in uno stesso luogo, comincerò a capire se questi possono essere uniti senza rischio. Allora le faccio una domanda: ma se lei invita 5 amici a casa, gli fa il tampone? Sì. No, invito 5 amici a casa, non perché invito. Non sono obbligato. Non è certo che non è obbligato, io invece lo faccio. Se invito 3 amici a casa, e siccome non è vietato, adesso non entriamo sulla questione di fare anche le cose, non fare le cose che non sono vietate, se no certo isoliamoci tutti e basta, allora non dovrei venire qui e non dovrei venire in radio. Leonardo è silente, io lo so, quando Leonardo è silente ma sbuffa dall'alto del suo raffreddore peraltro, è che vorrebbe dire, ma è meglio che non dica, per il bene suo. Hai visto che De Luca pare che abbia dichiarato che si va, se non si rispettano in modo molto preciso le norme, si va di nuovo in campagna verso un lockdown. Certo, dopo le elezioni l'ha detto. Prima delle elezioni no, non l'ha detto. Giorno dopo sì. Comunque la questione è, se uno invita 3 amici a casa, non è che gli chiede il tampone, gli chiede di rispettare, lavatevi le mani, stiamo non appiccicati, non limoniamo davanti, no? Cerca di dire entrate e comportiamoci secondo le norme di buonsenso. Non è che eccolo qua, arrivato subito. Caro Milan, oltre le cose vietate esiste il buonsenso. È arrivato dopo 0 secondi, quindi caro Manera, se tu hai invitato, quando non so, siamo andati a Treviso insieme, siamo stati e non abbiamo limonato, oltre il buonsenso, capisci? Abbiamo sbagliato, bocciati, borsa, bocciati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1 Nessuno 100 Milan. È vero che lavora in Vestaglia, però è anche vero che viene pagato poco il signor Bonetti. Lo dimostra il fatto che a Beniamino gli dà i biscotti nell'acqua. Insomma, quella è micragnosità. 1000 euro a pezzo, fate conto, ne fa 2 al giorno. Prego. Andate a vedere fuori dai licei e delle scuole medie e elementari che cosa succede all'ora di uscita. Altro che distanziamento. Sì. Però tutti bravi a giudicare qui il buon Manera, che invece rispetta tutte le regole, però. No, eccolo qua. Non rispondo alle provocazioni. Oggi ho deciso di non rispondere alle provocazioni. Senti qua, che c'è Nicola da Padova. Mi dicono che ha voluto chiamare per ringraziarti. Ma davvero, Nicola? Certo. Ringraziare Manera, perché volevo ringraziare il grande Leonardo Manera per i suoi numeri, che ne dia ancora. Perché? Ho fatto un ambo con i numeri che ha dato Manera. Quando passo per il bar Jimmy gli lascio pagato caffè e brioche. Ma come? Per tutta la settimana. Un ambo. Che numero aveva dato? 8-19, non ricordo più. 8-19. 127 euro. 8, c'era l'11 e 69, ne avevi dati 5 numeri e me li ho memorizzati, dopo me li sono scritti. Il mago e li ho giocati. Bonetti. E preso. Vabbè, ma guarda che mica li ha buttati lì, il Mago Bonetti. Ma ne deve dare ancora il Mago Bonetti. Guardi, io do ancora il consiglio sempre di quei numeri 8 e 19. No, 8 e 19. Allora oggi gioco 8 e 19 su che ruota? Perché io ho giocato su Milano, non avevi dato la ruota. Sì, giochiamo ancora su Milano 8 e 19. Nicola, grazie, ma vai al diavolo Manera, insomma adesso si trasforma anche, ma tu pensa a te. Anzi guarda, convoco un tuo caro amico Giorgio Zanetti che torna con noi. Giorgio, buongiorno. Ciao. Oh, buongiorno, come va ragazzi? Si lavora? Noi sì, ma hai sentito che Manera adesso si trasforma anche in... come si può definire questo lavoro dei numeri dell'otto? Mago dell'otto. Mi sto riciclando anch'io come lavoro, come ha fatto anche Giorgio Zanetti. Grande, comico che ha fatto tante cose diverse. Giorgio Zanetti l'abbiamo chiamato perché è comico, ma in epoca di lockdown, siccome... non bisogna guardare, neanche andare troppo per il sottile, ha fatto tanto, ci aveva raccontato dell'esperienza con i rumeni a potare l'uva, credo, no? L'altra volta. Sì, come bracciante agricolo. Poi diciamo che invece in agosto mi si è aperta un'altra porta, perché quando si chiude una porta se ne apre sempre un'altra, e sono andato in Val Trebbia, praticamente sull'Appennino Ligure, a dare una mano a gestire un ostello di 70 posti. Ah, che bello, un ostello di 70 posti, bello. Insomma, bello relativamente. La media era di 14 euro al giorno di lavoro. Vi assicuro, era pesantissima la cosa. Però ho fatto un sacco di incontri fantastici, girata gente bellissima, guarda. Insomma, gente quindi che veniva nell'ostello nonostante le preoccupazioni, nonostante i timori. Sì, in effetti ne è girata tanta, ma ho conosciuto personaggi davvero fantastici. Pensa che praticamente per una settimana ho avuto come ospiti un pittore di Casteggio, ok? Ed un ragazzo sordomuto di Bari, si può dire sordomuto? Sì, si può dire. Tranquillamente. E praticamente questi ragazzi, durante la mia ultima ora lavorativa, che era la 14ª, che io spendevo nei bagni, ovviamente a pulire i bagni, perché lì ci sono turche e docce, sono circa una ventina di turche e docce da pulire ogni sera, no? Mm-hmm. E questi mi seguivano nei bagni e si discuteva di tante cose, cose della vita, momenti di filosofia, arte, cultura, insomma... rigorosamente fuori dei bagni, però, perché ovviamente non pretendevo che mi pestassero il pavimento perché lo stavo pulendo. È chiaro. Hai dovuto imparare anche allora il linguaggio dei segni per parlare con il sordomuto, per cercare di comunicare, no? Diciamo che in un certo senso non riuscivo a farsi capire, aveva un ottimo apparecchio, tra l'altro. Però la cosa che mi ha sconvolto durante una serata è che mi ha raccontato una cosa che non mi ha fatto dormire di notte, cioè nel senso che mi ha detto, e questa cosa io non la sapevo, che il 92% della nostra mappa genetica è simile a quella del topo. Del topo. Cioè, io stavo pulendo il bagno, ho interrotto tutto, mi sono fermato allo spazio turno, non ho più versato la candeggina, ma stai scherzando, voglio dire. Però se uno conosce Manera, ad esempio... può pensare... Tu dici che io sono un topo praticamente, mi stai paragonando a un topo? No, cioè, dici che la mia personale mappa genetica è al 99% simile a quella di un topo. L'uomo topo, questo è un bel complimento che oggi non mi aspettavo, ti ringrazio, ma era l'uomo topo. Autogatto e Mototopo, ragazzi, vi ricordate questi personaggi? Certo. Autogatto e Mototopo. La cosa sconvolgente invece è che per il 44% abbiamo una mappa genetica simile a quella del moscerino, ma vi rendete conto? Per metà siamo come i moscerini, il 35% come il verme. Io non ci ho dormito la notte, queste cose. Cosa volete che vi dica? Magari anche delle specie... che era un periodo in cui ero un po' turbato. No, comunque Giorgio Zanetti insomma ci aveva raccontato appunto che aveva fatto il bracciante agricolo, so che hai fatto anche il muratore, mi ha detto Leonardo, per un certo periodo. Sì, ho fatto un paio di mesi l'aiuto muratore, quello che a Bergamo viene chiamato il boccia, che non è proprio il muratore ma è quello che fa i lavori più pesanti rispetto al muratore, che porta i sacchi di cemento, che insomma si dà da fare, spacca i muri, in attesa del muratore che è invece più tecnico. E lì mi sono fatto un bel mazzo perché avevo una mansarda da mettere a posto al secondo piano portando su e giù sacchi di cemento. Insomma è stata una bella palestra. Bella palestra. Tu sei già magro di tuo, quanto sei dimagrito ancora in questo periodo? Diciamo 3 chilettini più o meno, noi non ci vediamo da un po' adesso Leonardo, però 3 chilettini li ho tirati giù, ma ti assicuro che c'ho addosso un'energia, un'argenteria ragazzi che fa paura. Ho voglia di fare qualcosa adesso, non riesco più a farne a meno. Beh, stupenda questa cosa, però, perché voi fate parte entrambi nel mondo dello spettacolo, però avete raccontato, Manera ci racconta di come la difficoltà di questo settore è evidente. Evidente, Giorgio Zanetti l'ha, come dire, l'ha presa per le corna questa difficoltà. No? Sì, anche poi tenendo conto di quello che sta girando, si parla ancora di possibili lockdown, momenti ancora difficili da passare, questi contagi che aumentano, ragazzi, ma quando è che ripartiamo a gonfie vele noi del mondo dello spettacolo? Ci vorrà ancora un sacco di tempo. Anche io mi sono guardato un po' in giro per cercare di fare altro. Adesso vediamo, ho un paio di prospettive per i prossimi mesi, tutta robettina breve, però ci provo, insomma. Tra questi tre lavori qual è quello più pesante fisicamente che hai fatto? Quindi occuparti delle vigne, fare il muratore e curare l'ostello? Beh, io direi che in assoluto è stato il bracciante agricolo, perché l'ostello è vero che fai 14 ore, ma sono tutto sommato lavori anche più leggeri, cioè cambi lenzuola, pulisci, è più un lavoro di ore, ma leggero per quanto riguarda la fisicità. Il bracciante agricolo invece, con sti rumeni che hai addosso sulle spalle, ragazzi, non 8 ore, ma pesantissime, poi con una tensione, ragazzi miei, mamma mia, una paura proprio. Sì, ci avevi raccontato l'altra volta che 8 ore con il capo rumeno ne valgono come altro che 14. Sì, con una capa italiana, peraltro, perché a gestire l'ostello c'era una ragazza italiana, anche lei grande lavoratrice, però più elastica. Ma sai come siamo noi italiani? Siamo più elastici in tutto alla fine, no? Eh sì, assolutamente. Adesso mi è arrivata una bella prospettiva, che però ho rifiutato, perché in pratica mi hanno proposto di fare il giardiniere per un supermercato Conad. E perché hai rifiutato? Perché mi propongono due ore settimanali. Ma no, ma perché un'ora il lunedì mattina dalle 7 alle 8 e un'ora il giovedì mattina dalle 7 alle 8. Capisci che venendo da 14 ore di lavoro, un'ora per me è uno smacco, è uno schiaffo proprio al mio orgoglio. Sono rifiutato. Troppo poco. Vabbè, grande Giorgio Zanetti, grazie per essere stato qui. Insomma, raccontaci, seguiremo un po' le altre tue avventure lavorative, che sono un po'... Leonardo, non sono molti nel mondo dello spettacolo, che tu sappia, ce ne sono altri come Giorgio Zanetti che si stanno reinventando nuove vite, no? Ma che io sappia, no, Giorgio è l'unico che ha fatto questa scelta così, insomma, impegnativa anche. Impegnativa soprattutto. Io, per esempio, sarei stato sotto le coperte al suo posto ad aspettare. Ho capito, sì, è come campi. Ah sì, fai i pezzi così per Radio 24. Come fai ad andare a Rai 1 se devi prendere il treno? Ti presenti in Vestaglia? No, lì... Ma ho visto che si può anche fare da casa, adesso vediamo. mi sa che ti mandano a quel paese. C'è un ascoltatore o un'ascoltatrice, non so, che dice: come hai fatto a non limonare Manera con Tre Cuori? Non lo so, perché siamo andati a Treviso insieme in macchina, ma non abbiamo limonato. Ho resistito benissimo, devo dire. Non ho avuto neanche una minima tentazione, neanche arrivato all'altezza di Verona. Comunque andiamo a sentire il traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Ci hai mai pensato? Con i ragazzi c'è sempre qualcosa da festeggiare. Un compleanno, un onomastico, una cerimonia, una ricorrenza, un bel voto a scuola. Ma hai mai pensato a premiarli in modo originale? Scegli i buoni dedicati ai minori, garantiti dallo Stato italiano, sottoscrivibili in tutti gli uffici postali. Il regalo ideale per il loro futuro. I buoni di Cassa Depositi e Prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma ragionateci un attimo su, no? Una classe politica proprio, ma a livello mondiale, che è vomitevole, no? È inutile. È la manna il Covid per questi qua. La manna. Cavalcheranno questo cavallo covidiano finché regge, perché se no cosa fanno? Questi poveretti qua. Mi sono perso all'inizio, non ho capito a chi si riferisse, comunque pazienza. Allora, ci arriva un messaggio dalle Canarie, Daniele ci sta ascoltando, beato lui dalle Canarie. Scrive: perché si continua con la comunicazione della paura e mai dare spazio a chi guarisce, rimarcare che da questo virus si guarisce dando più spazio alla speranza di un possibile e doveroso ritorno alla normalità. Forse perché oggi essere positivi e ottimisti non fa bene? Oh, l'ha detto Daniele, io non dico niente, io non rispondo perché per aver detto queste cose, che Daniele te lo scriverò in privato, grazie per questo messaggio, io condivido al 100%, ti danno del negazionista, non hai buon senso, vai contro le regole, sei un briatore, te lo dicono come se fossi lì al billionaire, eccetera. Vabbè, quindi ho deciso che non ho più voglia di parlarne, non ne scriverò mai più niente su Facebook, scriverò come fa ogni tanto Manera, pubblica un sasso dicendo oggi per non creare polemiche pubblico un sasso, e poi ci sono polemiche sul sasso ovviamente. Comunque è venuta a trovarci, no? Volevi dire qualcosa? Non l'ho interrotta, no, prima, ecco, quando stava parlando lei. Porca. Lei non mi interrompa quando sto parlando io. Mandiamo pure Lino del PC, partito sovranista italiano. Allora dalla regia gentilmente mandiamo per intero. Per intero, non cominciate a sabotarmi. Pisi anche tu, partito super sovranista italiano, PSSI. Si pronuncia Pissi, che ti protegge ogni giorno di più. Allora, sono Giampaolo, detto Geppo Garosio. Garosio vuol dire fiducia, perché io dico le cose come stanno, come mamma le ha fatte, non ho peli sulla lingua. Se vuole me la può anche guardare, la lingua è un po' bianca perché ha un po' di reflusso, ma di peli non ce n'è, al contrario degli altri politici che sono tutti coi peli sulla lingua, sono nati coi peli sulla lingua gli altri politici. Allora io ho fondato un partito, Partito Super Sovranista Italiano, PSSI, e sono uscito dalla Lega di Matteo Salvini perché lui è troppo moderato. Io invece è troppo moderato Salvini, io sono immoderato, invece immoderato, dico le cose pane a pane, prosciutto a prosciutto, anche se adesso sono tutti vegani. Allora se vuoi essere vegano va bene, fate il maiale con le alghe, io però continuo a preferire il maiale di carne, va bene, diciamo le cose come stanno. Salvini è troppo moderato, lui vuole chiudere i porti per esempio. Ecco, lui voleva chiudere i porti per evitare l'arrivo di extracomunitari. Io voglio anche chiudere, anche le stazioni sciistiche. Perché? Così evitiamo di prenderci gli extracomunitari che arrivano da nord, evitiamo di prenderci gli extracomunitari che passano da Courmayeur con la neve, si fanno la faccia bianca e invece sono neri come il carbone. Allora chiudiamo. No, la smettano, io l'ho interrotta, abbandono lo studio, allora per cortesia. Allora, io oggi non sono qui per parlare di extracomunitari, sono qui per parlare dei nostri amici, fra virgolette, amici europei, che sono i peggiori di tutti. Perché? Gli inglesi, per esempio, gli inglesi, vogliamo parlare degli inglesi? E parliamo. Gli inglesi hanno ancora la regina, allora se hai la regina, invece di insegnare agli altri come vivere, vai a giocare a scacchi. Ti mettete il re, un paio di tori, un cavallo, siamo a posto, bravi inglesi, fenomeni. Gli inglesi dopo le 10 di sera sono sempre ubriachi perché vanno al pub. Parlare un inglese dopo le 10 è come parlare a una lattina di birra, solo che forse la lattina di birra ti capisce di più. E questi qui con re e la regina vogliono venirci a fare la morale, ma per piacere. Poi chi c'è? Chi c'è dopo Milan? Chi c'è? Chi c'è? Gli spagnoli. Ma chi l'ha detto? Gli spagnoli sono famosi per due cose: la paella e il flamenco, cioè mangiare e ballare. Voglia di lavorare, saltami addosso. Questi qui mangiano e ballano, si buttano sul letto, dormono fino a mezzogiorno. E poi vogliono insegnarci come vivere a noi e hanno ancora il re. Allora, se hai ancora il re, vai a giocare a scacchi con la regina Elisabetta. Fate Spagna e Inghilterra a scacchi e siete contenti. Va bene, è vero o non è vero? Usque tandem. Allora, poi ci sono gli altri. Gli altri. Pisci anche tu, pisci anche tu, lo capisci anche tu. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, meno male. Ci siamo persi Garosio, ma la grande, meno male, meno male. Cos'ha Garosio? Le viene da ridere, come mai Garosio? Perché anche lei ride delle sciocchezze che dice. Questa è la verità. Lei non crede a quello che dice. Lei. Ormai per lei parla solo questo orribile inno, non ha nient'altro da dire. Questa è la verità. Poi ci sono gli altri fenomeni chi sono? Gli ungheresi. Gli ungheresi hanno solo il salame. Ma A questo si è ridotto. A questo allora, si è ridotto. Allora, allora gli ungheresi hanno solo salami. Noi ne abbiamo tanti di salami, no? Ne cito due o tre: quello di Felimo, il salame Milano, il salame di Torino, caccia Torino. Anche gli ungheresi a noi non possono insegnare niente. Allora, come dice il proverbio, se non hai il pallone, stai a casa. Se non hai il pallone, stai a casa. Poi per finire, chi c'è? I croati, c'è i macedoni. Sì. Concentriamoci sui macedoni. Dai, come si chiamano gli abitanti? Banane, fragole, ho detto tutto. È come se noi italiani ci chiamassimo tortellini in brodo oppure lasagna. Vieni a visitare anche tu lasagna, poeta di poeti, santi navigatori. E poi per finire chi c'è? C'è la Finlandia. Chi è il personaggio più famoso della Finlandia? Chi è? Babbo Natale. E noi dovremmo prendere esempio da un paese dove il loro personaggio più famoso lavora un giorno all'anno, un giorno all'anno, e poi fanno i fenomeni. Vada, allora quelli che da noi timbrano un cartellino e poi vanno a casa sono degli staccanovisti. Vada, abbandona lo studio, abbandona. Ciao, abbandona. Nessuno, 100.000. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.